Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Maurizio Stroppiana. Un mondo di sport. A cura di Anna Marino. Prima di tutto, forse colgo l'opportunità di citare una frase che ama sempre dire mio padre, che è quella che la Mondo si prefigge l'obiettivo di far divertire e giocare dal bambino più piccolo con i palloni all'atleta. Noi siamo sempre presenti in tutte le manifestazioni sportive, in ogni ambito. Abbiamo iniziato e ci siamo fatti conoscere nell'ambito dell'atletica, però oggi ci concentriamo anche su tutti altri, una quantità di altri sport, tra cui molto importante il basket e non ultimo il calcio. Lo sport a 360 gradi intorno a Maurizio Stroppiana, presidente di Mondo, un'azienda storica internazionale conosciuta soprattutto per la produzione di pavimentazioni sportive, in particolare per piste di atletica leggera e campi in erba sintetica. Dopo oltre 60 anni, Mondo è diventato un gruppo internazionale, composto da 30 consociate dislocate tra Europa, America e Asia. Impiega più di 1.500 collaboratori in 11 impianti produttivi, 5 in Italia, 3 in Spagna, 1 in Lussemburgo, Canada e Cina, per la commercializzazione dei propri prodotti in almeno 196 paesi. Mondo è stata scelta per ben 9 volte consecutive, da Montreal 1976 sino a Pechino 2008, come fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici e si è aggiudicata anche le prossime Olimpiadi, Londra 2012. In un anno circa 150.000 atleti, professionisti e non, si allenano e gareggiano su pavimenti e con attrezzature Mondo. E Maurizio Stroppiana è anche uno sportivo particolare, al di là del lavoro. Forse mio fratello lo è di più di me. Io amo partecipare e vedere gli eventi in televisione o partecipare a questi eventi sportivi per respirare quello che è l'ambiente sportivo. Accomuna anche molto le persone. Mondo nasce nel 1948 a Gallo d'Alba, piccola frazione in provincia di Cuneo fondata da Edmondo Stroppiana e dai suoi figli, Fiorindo, Ferruccio e Fernando Elio. Inizia come produttore di palloni per uno sport allora molto praticato nel Basso Piemonte e in Liguria, il pallone elastico. Un gioco a squadre in cui il giocatore fa rimbalzare il pallone da un campo all'altro colpendolo con un pugno. Un gioco che esiste ancora. L'azienda è stata fondata da mio nonno e Edmondo Stroppiana. I due poi fondatori, coloro che hanno creato l'azienda, sono mio papà Elio e mio zio Ferruccio. E loro assieme, subito dopo la guerra, hanno deciso di iniziare questo percorso imprenditoriale che li ha portati a voler sfidare un po' quello che erano le difficoltà del momento, cercando di andare a creare qualche cosa che potessero vendere, che potessero produrre. È iniziato proprio in piccolo, facendo i primi palloni che vengono utilizzati per la pallapugno, che è un gioco un po' particolare che è praticato nella zona delle Langhe. L'idea è stata quella di iniziare a produrre proprio questo tipo di pallone, perché non si trovava o non era così facilmente reperibile. Da una produzione legata alla zona e in cui i palloni venivano fatti uno per uno nel forno della cantina di casa, allo sviluppo. Così spiega il salto Maurizio Stroppiana. La prima svolta, diciamo, che ha permesso di costruire le macchine necessarie per la produzione in larga scala dei palloni è stata una commessa che la Mondo si è aggiudicata con la Ferrero per produrre delle palline che venivano regalate all'acquisto della Nutella. Questo nel 1950. Dopodiché inizia un percorso che vede la collaborazione dei due fratelli, Elio e Ferruccio. Da un lato continuare a produrre e a migliorare la produzione dei palloni e dall'altra di cercare di fare anche qualche cosa di diverso. Questo è stato l'inizio dello sviluppo della produzione delle pavimentazioni. Pavimentazione prima ad uso civilistico e dopo ad uso sportivo. Quindi nel 1956 a Savona viene realizzata la prima palestra polivalente utilizzando 700 metri quadri di gomma. Mio nonno Edmondo aveva il primo negozio di gommista. È da lì che nasce anche questo interesse e questa conoscenza nell'ambito della gomma. come utilizzare la gomma anche per altri usi. Incuriosisce il nome Mondo, che ha origine da un soprannome del fondatore, come ricorda Maurizio Stroppiana. Il nome Mondo è stata una cosa, non so se lungimirante o fortuita, però proviene dal nome di mio nonno, che si chiamava Edmondo, e però veniva chiamato dagli amici al bar Mundo, quindi da lì nasce il nome dell'azienda. È un nome riconoscibile, è un nome che funziona in tutte le lingue, è un nome che trasmette globalità, no? Trasmette internazionalità. Se consideriamo che fu coniato 60 anni fa. Un'altra svolta è stata quella che ha fatto sbarcare Mondo sui mercati internazionali. Nel 69 Elio e Ferruccio Stroppiana organizzano un viaggio intorno al mondo e vanno a visitare diverse fabbriche che producono gomma, che producono prodotti chimici, passano in Giappone, passano in Asia, passano negli Stati Uniti per vedere cosa c'era di nuovo. Perché già prima, che è un po' anche quello che ci hanno trasmesso a noi terza generazione, era quella di non limitarsi a vedere quello che succede, diciamo, vicino a casa, ma andare a vedere cosa fanno gli altri e cosa succede in giro per il mondo, per capire, trarre spunto, trovare delle nuove idee e poi metterle a buon uso a casa nostra. Il rapporto con i mondiali è da sempre strettissimo grazie a un tantame internazionale. Il rapporto con i mondiali, tutte queste manifestazioni sportive, dalle Olimpiadi ai campionati del mondo d'atletica, ai mondiali di basket, nascono dallo sviluppo di relazioni con questo mondo dello sport, perché ogni sport, dal calcio all'atletica, è un mondo piccolo alla fine. Ecco com'è essere piemontesi nel mondo secondo Maurizio Stroppiana. Un modo di vivere che parte dai valori di famiglia e dalla terra d'origine. Per noi è proprio prestigioso essere riconosciuti dall'America, appunto, alla Cina, alla Russia. Quando si parla del mondo nell'ambito del nostro settore ci riconoscono. Nel giro, per esempio, dell'atletica o nel giro del calcio si immedesimano nella mondo e nella famiglia Stroppiana o nelle persone che lavorano con noi, nei nostri collaboratori, perché anche lì il fatto che siamo un'azienda familiare, un'azienda presente da tanto tempo, abbiamo anche la fortuna di avere collaboratori che ci seguono da 30 anni. Ecco, queste figure, dall'America alla Spagna, al Lussemburgo, alla Francia, fanno la differenza. Siamo comunque figli di imprenditori, gente che poi si è fatta da sé, perciò prima di tutto è questa dedizione al lavoro e la disciplina. Quindi è anche un'etica che ci trova ad essere comunque, a non montarci la testa, sai, noi siamo comunque cuneesi, perciò nel Piemonte, quindi siamo gente coi piedi per terra, non siamo gente che ci diamo delle arie, siamo gente che lavora. Arriviamo più da un modo di pensare, forse contadino non è giusto per dirlo, ma comunque più aggrappato alla terra. Nonostante le grandi dimensioni, Mondo resta un'azienda a conduzione familiare, guidata dalle vecchie e dalle nuove generazioni della famiglia. Maurizio Stroppiana spiega la ricetta del passaggio di testimone. Ringrazio sempre mio padre, mio zio, e mia mamma e mia zia, e l'opportunità che ci è stata data di andare per conto nostro, di provare, di fare esperienze. Quindi noi siamo, io e mio fratello, siamo partiti, a parte che eravamo in collegio già a 13-14 anni, poi a 18 anni siamo andati a fare l'università negli Stati Uniti e da lì siamo rimasti, mio fratello ancora in Canada, ma io sono ritornato nel 2002, dopo 14 anni. Quindi, e lì abbiamo sempre lavorato per l'azienda, ma in un ambito che ci ha permesso di fare delle esperienze ci hanno dato molta, molta libertà e quindi e la possibilità anche di fare esperienza lontano da casa. Penso che quello sia una delle ricette necessarie. Secondo è di avere l'umiltà di riconoscere la valenza, il valore, l'esperienza che mio padre e mio zio ci possono ancora oggi trasmettere. Maurizio Stroppiana spiega come è stato il suo avvicinarsi progressivo all'azienda fino all'ingresso definitivo. Da piccolo io e mio fratello lavoravamo sempre d'estate in fabbrica, quando avevamo 14 anni, sto parlando di 25 anni fa. Poi io ho iniziato a lavorare sotto la guida di un direttore della nostra filiale in Canada, che era un sito produttivo e commerciale per tutta il Nord America. Ho seguito questa persona per un periodo, dopodiché ho preso in mano questa responsabilità insieme a mio fratello e da lì ci siamo fatti un'esperienza. Per me l'essere andato via subito così giovane, da un lato mi ha dato la possibilità di fare esperienza, ma dall'altro mi ha messo anche con le spalle al muro, cioè ho dovuto reagire perché diventava una mia scelta quella di fare qualche cosa. Maurizio Stroppiana ha una ricetta sportiva per conciliare vita e lavoro, con un ingrediente principale, che è la disciplina. Una pecca degli italiani, no? Di non fare una distinzione tra quello che è la famiglia e il lavoro, la propria vita privata ed il lavoro. Io la mia esperienza l'ho fatta in America, cerco comunque di fare un distinguo da quello che è il lavoro e quello che è la mia vita personale. Poi mi sono sposato 3 anni fa, ho un bellissimo bambino di 8 mesi, ho una bellissima moglie, siamo molto affiatati e di nuovo secondo me bisogna darsi una regola, insomma cercare di trovare lo spazio per le due cose, non mischiare, che poi è stato sempre un modo di fare dei nostri genitori. Il 16 agosto 2008 Usain Bolt con il tempo di 9,69 ha stabilito il record mondiale dei 100 metri piani su una pista mondo durante le Olimpiadi di Pechino. Maurizio Stroppiana ha una posizione privilegiata e invidiata, grazie alla quale può conoscere da vicino grandi campioni e può dire che parte del suo lavoro è essere aggiornati sulle ultime notizie sportive. Mi ricordo Atlanta, Michael Johnson, quando fece i record sui 200-400 metri. Sì, sono momenti speciali. Però gli atleti sono veramente da stimare, perché sono persone veramente dedicate al 100% a un'unica cosa, no? Ed è interessante poter interagire con loro. Vale la pena comprare la Gazzetta dello Sport per aggiornarsi un attimo, per avere qualche cosa da dire. Mondo è specializzata anche nella produzione di pavimentazioni commerciali e industriali di alta qualità, adatte a mezzi di trasporto, per esempio sul pendolino o nelle metropolitane di New York, Londra, Roma, Torino, ma anche in aeroporti, ospedali, università, centri commerciali. Produce anche giocattoli per l'esterno e palloni da gioco, 450.000 al giorno, ma anche prestigiosi motor yacht, con un occhio sempre all'ambiente. Alla fine del loro ciclo di vita, le pavimentazioni sono riciclabili al 100%. Ecco come Maurizio Stroppiana spiega la diversificazione. Questo è stato uno sviluppo voluto da mio papà e mio zio, da un lato anche per che poi si è dimostrato essere vincente, perché ci ha permesso una diversificazione che in momenti difficili ci aiuta moltissimo. Il momento di crisi attuale noi l'abbiamo vissuto bene, perché forse perché quando c'è stato l'eccitazione degli ultimi anni, parlo di 4-5 anni fa, abbiamo fatto il nostro lavoro ma non ci siamo montati la testa, non abbiamo esagerato. Resistiamo alla crisi. Maurizio Stroppiana indica quali strade percorrerà in futuro lo sport a livello professionale, ma anche amatoriale. Segue l'evoluzione, posso fare un'analogia delle scarpe. Pensi oggi che tecnologia e che cura c'è nello sviluppo della calzatura per lo sport. Uno non è che gioca a calcio con i mocassini, cioè si compra l'ultima versione della scarpa che produce la ditta leader o che ha nei piedi il grande atleta. La pavimentazione sportiva e l'attrezzatura segue quello stesso percorso di arrivare a dire ti do il meglio. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.